Io ho l'impressione che l'opinione pubblica avesse bisogno di un po' di chiarezza e non andasse a confondere opere dove c'è un profitto con opere che invece hanno un lavoro sussidiario. La scuola cattolica fa un lavoro sussidiario, le scuole statali non pagano l'IMU, non capisco perché il privato che fa un principio, fa un lavoro sussidiario deve pagare la tassa sugli immobili. Guarda, io non so che cosa abbia in testa il Premier Monti, che tra l'altro si è fatto le scuole dei gesuiti del Leone XIII. Io penso che molti politici abbiano esattamente in mente quello che ha detto lei, un criterio ideologico, e quindi continuino a pensare che il servizio è pubblico solo se è direttamente gestito dallo Stato. E quando un privato fa un servizio pubblico, non è più pubblico. Allora, qual è il ruolo dello Stato? Il ruolo dello Stato è di controllare che il privato faccia un servizio e non ci guadagni troppo sopra. Non è quello di erogare sempre in diretta i servizi. Io credo che questo presupposto ideologico sia ancora molto forte in Italia ed è quello che ha bloccato il cammino verso la parità economica. Da 12 anni abbiamo una legge che riconosce la parità delle scuole cattoliche impostate in un certo modo. Ma è una parità soltanto di doveri e non di diritti, per cui le famiglie devono pagare le tasse, quindi gli operai pagano le scuole anche per le famiglie benestanti che vanno nella scuola statale e non pagano quasi nulla, e devono di nuovo pagare per essere liberi di scegliere dove mandare il loro figlio. Questa è la situazione.